Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il rapporto di Confindustria sui lavoratori qualificati in Friuli Venezia Giulia pone la regione ai primi posti in Italia, anche se sotto la media europea. In pullman, in auto, in treno saranno oltre 1000 i lavoratori e i pensionati che dal Friuli Venezia Giulia partiranno per partecipare alla manifestazione La Via Maestra, domani a Roma su iniziativa della CGL e di oltre 200 associazioni. Donne al timone per la Women in Sailing, la regata che oltre al suo valore sportivo e tecnico ha l'obiettivo di rendere sempre più visibile il ruolo di leadership delle donne nel mondo della vela a 2 giorni dalla Barcolana. Un'ora e mezza di concerto senza pause ieri sera per la celeberrima icona della musica rock a stelle e strisce, Patti Smith, che a Gorizia ha intrattenuto circa 8000 spettatori accorsi anche da Slovenia, Croazia, Austria e Bielorussia. Inizia questa sera la 42esima edizione delle giornate del cinema muto con l'evento di preapertura al Teatro Zancanaro di Sacile, dove sarà proiettato Poker Faces, la moglie di mio marito del 1926, accompagnato dal vivo dalla Zero Orchestra. Questi titoli, buongiorno e benvenuti alla seconda edizione del giornale radio di venerdì 6 ottobre. In primo piano dunque il rapporto di Confindustria sui lavoratori qualificati in Friuli Venezia Giulia, una regione che si colloca ai primi posti in Italia anche se rimane sotto la media europea. Tra i primi in Italia, ma in Europa siamo sotto la media. Il Friuli Venezia Giulia è tra le regioni con il maggior numero di lavoratori con competenze elevate. Sono il 35,6% del totale degli occupati, come spiegano le analisi dell'Ufficio Studi di Confindustria Udine elaborati su dati Eurostat. Secondo la definizione, i lavoratori altamente qualificati comprendono manager, ma anche professionisti, tecnici e professionisti riuniti in associazioni. Si tratta insomma di dirigenti o di specialisti come ingegneri meccanici e gestionali, ma anche di disegnatori tecnici o tecnici meccanici e controllori di produzione. Il Friuli Venezia Giulia supera così Veneto, 33,9%, e le province di Trento, 34,5%, e di Bolzano, 35,3%, mentre in Italia, meglio di noi, fanno solo Lombardia ed Emilia-Romagna. Il quadro però cambia se si allarga lo sguardo all'Europa. Qui la regione risulta indietro rispetto alla media dell'Unione Europea, che si consolida al 44,2%. In questo caso i numeri migliori si fanno nel nord Europa, con le quote più alte in Svezia, nei Paesi Bassi, in Lussemburgo e in Belgio. Un risultato a metà, insomma, che secondo la vicepresidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, deve spingere a fare di più, in particolare con interventi per rendere più attrattivo il sistema scolastico universitario e soprattutto per favorire le esperienze di lavoro precoci, per rendere più facile il successivo passaggio nel mondo del lavoro. Come spiega Carlo Scorvino dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, il dato riflette la crescita avvenuta nel corso del biennio 2021-2022 per il settore industriale, soprattutto in termini di produzione, valore aggiunto e percentuale sul PIL. Negli ultimi mesi però il numero di assunzioni sta diminuendo, con difficoltà diffuse a seconda del settore, ma in particolare nella metalmeccanica, con una riduzione soprattutto degli operai specializzati, di conduttori di impianti e di personale non qualificato. Rimaniamo sui temi del lavoro con la conferenza stampa della CGL in cui sono state spiegate le motivazioni della grande manifestazione prevista domani a Roma. Nell'occasione sono stati illustrati anche alcuni dati sull'occupazione in regione. In pullman, in auto, in treno saranno oltre 1000 i lavoratori e i pensionati che dal Friuli Venezia Giulia partiranno per partecipare alla manifestazione La Via Maestra, domani a Roma su iniziativa della CGL e di oltre 200 associazioni. Una mobilitazione che nasce dalla mancanza di risposte da parte del governo sul lavoro, sanità, sulle aspettative di riforma del fisco e della previdenza, dalla crescente preoccupazione per la situazione del paese e di milioni di famiglie, ma anche dalla contrarietà al progetto di autonomia differenziata e alla filosofia che caratterizza le politiche del centrodestra, anche sui temi cruciali come l'immigrazione. Una situazione che non è rosea neanche in regione, dice il segretario regionale William Pezzetta. I dati che arrivano dal mondo del lavoro regionale, intanto, non sono soltanto segnali di tenuta. William Pezzetta, segretario regionale CGL. Noi stiamo assistendo a un rallentamento e ovviamente c'è un quadro internazionale che non aiuta, Però c'è un dato su tutti: dal punto di vista occupazionale, se noi prendiamo a riferimento i primi sei mesi dell'anno scorso rispetto a questi sei mesi qua, nell'industria noi abbiamo circa 6-7 mila occupati in meno, che sono stati in qualche maniera recuperati nel terziario, ma ovviamente noi sappiamo che la nostra è una regione a trazione manifatturiera. A Roma, in partenza dal Friuli Venezia Giulia, sarà nutrita anche la partecipazione del mondo associazionistico regionale, come ANPI, Emergency, il coordinamento salute del Friuli Venezia Giulia, il comitato per il ritiro di ogni autonomia differenziata del Friuli Venezia Giulia e altre associazioni. È convocata per oggi all'auditorium di Staranzano, con inizio alle 18.30, l'assemblea regionale del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia, aperti da una commemorazione del presidente Napolitano, recentemente scomparso. I lavori prevedono l'elezione e il saluto del presidente dell'assemblea e la proclamazione e la relazione della nuova segretaria regionale Caterina Conti, eletta dal voto degli iscritti lo scorso 24 settembre. Tre ordinanze che vietano il consumo di molluschi in due zone della laguna e in una dell'arco costiero antistante a Lignano sono state emesse nel giro di una sola settimana e una di queste riguarda la presenza di salmonella nelle vongole della laguna, un campanello d'allarme che dovrebbe scattare ma fino a ora è rimasto silenzioso. Ad affermarlo è il coordinatore territoriale di Udine del Movimento 5 Stelle Cristian Sergo, che interviene in una nota dopo gli ultimi atti pubblicati da ASUFC inerenti i divieti di consumo diretto di molluschi in laguna e in mare tra il 29 settembre e il 3 ottobre scorso, affermando che l'azienda sanitaria competente, nonostante i tre casi di sforamenti batteriologici, non ha fino ad ora provato a ordinare ad ARPA di ricercare le cause degli stessi. Alle 12.37 il tempo, cielo da poco nuvoloso a variabile su tutta la regione. Queste le temperature delle 11. A Trieste 22 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 23 gradi. A Gorizia 23 gradi, a Udine e Pordenone 22 gradi e mezzo. A Tolmezzo 17 gradi e mezzo, a Forni di Sopra 16, a Piancavallo 15, a Tarvisio 14 gradi, a Sappada 13 gradi e mezzo. Sul Monte Zoncolan 10 gradi, sul Monte Lussari 7 gradi. Sulla costa a Lignano e Grado 23 gradi con temperatura del mare di 22 gradi. Ma sentiamo quale sarà il tempo nel fine settimana e soprattutto quale vento è previsto nel Golfo di Trieste in occasione della Barcolana, se ci sarà vento, con il previsore dell'OSMER, Livio Stefanuto. Il tempo sulla nostra regione rimane stabile a causa della presenza dell'anticiclone sull'Europa centro-occidentale, con aria secca e calda in quota. Cielo dunque rimane prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso per il passaggio di qualche velatura che domenica forse potrebbe essere un po' più consistente a momenti sulle zone più orientali. Temperature ancora decisamente sopra la media, specialmente le massime in pianura che si attestano attorno ai 26-27 gradi, sulla costa attorno ai 24-25. Sulla costa questa mattina ancora un po' di vento di bora, poi girerà a brezza nel corso del pomeriggio sera. Domani venti di brezza sulla costa, seppur piuttosto deboli, e anche domenica venti di brezza piuttosto deboli al mattino e al pomeriggio, poi in serata entrerà vento di bora, vento da nord-est, in genere moderato ma che potrebbe essere anche forte a Trieste. Nel momento della mattinata della Barcolana ci aspettiamo venti di brezza, al momento previsti piuttosto deboli. Rimaniamo ancora in tema di Barcolana, si va verso i 1600 iscritti alla regata velica di domenica, mentre continuano ad arrivare nel golfo le imbarcazioni dei partecipanti. Fra queste, molte sono le donne. Donne al timone per la Women in Sailing, la regata che oltre al suo valore sportivo e tecnico ha l'obiettivo di rendere sempre più visibile il ruolo di leadership delle donne nel mondo della vela. 4 barche, 8 metri e mezzo, equipaggi composti a metà donne e metà uomini, tutte e tutti professioniste e professionisti, da Francesca Klapcic, la campionessa e testimonial della Barcolana 55, a Carolina Albano e Alice Linussi, per citarne solo alcune. Emma Ursic della Corporate Identity delle Generali. Women in Sailing è un premio che diamo alla prima donna che raggiunge il traguardo di Barcolana domenica e che guida un team misto. Questo lo abbiamo pensato insieme a Barcolana, perché Barcolana è il posto perfetto dove portare questi temi, perché Barcolana è accessibile, tutti partecipano alla Barcolana, professionisti, amatori, si parte tutti insieme e quindi è un bel momento per portare all'attenzione questo tema. La persona che vince vincerà certamente il trofeo, ma anche un percorso di coaching con la scuola di formazione di gruppo di generali. Women in Sailing è un progetto nato nell'ambito della Barcolana e promosso dalle generali per incentivare le giovani donne, in azienda come in mare, ad intraprendere qualsiasi professione sfida. Un'idea piaciuta anche alla Federazione Internazionale di Vela, che la sta promuovendo nel mondo come buona pratica. Beh, diciamo che parte da qui e speriamo che ci siano tante altre occasioni di fare questo. Per noi è una metafora che parte dalla vela ma arriva anche poi nella vita di tutti noi, sia a livello personale che professionale. Gli attivisti contro la crisi climatica di Fridays for Future si ritroveranno oggi a Trieste, così come in molte altre città d'Europa e del mondo, per un corteo che partirà da Piazzale Europa alle 17.30. Tra le richieste, l'immediato taglio alle emissioni di gas serra per arrivare entro il 2030 allo zero netto e, sul piano locale, lo stop immediato al progetto Ovovia, l'abbattimento degli alberi della pineta di Cattinara, all'arrivo delle grandi navi nel porto di Trieste e il ritiro delle autorizzazioni regionali concesse ai progetti della SIOT. Il Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia festeggia il 150° anniversario di costituzione del Consorzio Acque dell'Agro Monfalconese. L'evento si terrà presso l'azienda agricola Castelvecchio di Sagrado oggi alle 17. Nell'occasione verrà presentato il libro dal titolo Il Consorzio Acque dell'Agro Monfalconese, opera di pace e di sviluppo sociale alle porte dell'impero, di Renato Duca, Renato Cosma e Daniele Luis, che ripercorre l'epopea di un manipolo di amministratori illuminati che inventarono e misero in atto quello che ha tutt'oggi il fulcro del sistema della distribuzione irrigua della pianura isontina. Un drammatico attacco all'azione di ricostruzione degli ecosistemi fondamentale per il nostro futuro sul pianeta. È così che il WWF, in una nota, definisce l'uccisione avvenuta in territorio austriaco della lince Sofia, uno dei 5 esemplari rilasciati nel Tarvisiano nell'ambito del progetto ULICA, parte di un importante progetto di conservazione transfrontaliero. La conferma della causa di morte, continua il WWF, è arrivata con i risultati degli esami effettuati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. È importante ricordare che l'uccisione di una singola lince rappresenta una significativa perdita economica, dati gli investimenti che l'Unione Europea, i Carabinieri Forestali, il progetto Lince Italia dell'Università di Torino e gli uffici WWF dell'Arco Alpino hanno portato avanti in questi anni. La lince Sofia era una femmina di 6 anni proveniente dal cantone del Giura in Svizzera. Il suo nome era stato scelto dal WWF Italia, uno dei partner che sostengono il progetto, ed era stata rilasciata il 16 marzo scorso. Il WWF Italia, assieme agli altri uffici alpini, valuterà la possibilità di costituirsi parte civile nel processo per l'uccisione dell'animale. Si può far conoscere con un fumetto la storia di un disastro causato dall'uomo? La risposta è sì, da qui l'idea di Ti racconto il Vajont, Ti conti il Vajont, animazione di una graphic novel realizzata dalla Società Filologica Friulana per spiegare ai più giovani quanto accadde quel terribile 9 ottobre del 1963, quando dal Monte Toc si staccò una frana che precipitò causando un'ondata di oltre 250 metri che provocò 2000 morti. Con un linguaggio adatto ai bambini, ai giovani e agli adulti, i disegni del fumettista Paolo Cossi ci portano alla scoperta delle cause e delle conseguenze di quella che è stata una delle più grandi disgrazie della seconda metà del Novecento. In occasione del 60° anniversario della tragedia, sul sito internet della Filologica Friulana si può guardare in modo del tutto libero il fumetto animato nella versione in lingua friulana. Nella stessa pagina si possono inoltre scaricare liberamente in formato PDF sia il volume sia il fumetto. E lunedì, in occasione del 60° anniversario, andrà in onda in diretta da Longarone lo speciale Vajont curato dalla nostra testata. Lunedì 9 ottobre su Rai 3 alle 16.20 per mezz'ora andrà in onda in diretta da Longarone speciale Vajont 1963-2023 a cura della testata giornalistica regionale per ricordare il disastro che provocò la morte di quasi 2000 persone e la distruzione di interi paesi. Memoria, testimonianze, responsabilità, 60 anni dopo. Appuntamento il 9 ottobre alle 16.20 su Rai 3 a cura della TGR Veneto. Ci sono diverse novità nei programmi che i centri giovanili di Pordenone hanno presentato oggi. Dagli incontri di prevenzione sulle dipendenze alle attività intergenerazionali per intercettare il disagio giovanile e offrire alternative a ragazze e ragazzi, il Comune di Pordenone punta su una rete di centri di aggregazione diffusi in città e nei quartieri, con le 4 strutture in via Pontini, a Largo Cervignano, via Prata e via De Dante, grazie a una programmazione realizzata dalle politiche giovanili con i partner Fondazione Opera Sacra Famiglia, Cooperativa Scaretti, FAI e Fondazione Another World Foundation. Alberto Parigi, assessore alle politiche giovanili del Comune di Pordenone. Stiamo facendo una mole di lavoro enorme e che continueremo a fare. Una parte, diciamo, incardinata nei centri giovanili, penso attività formative ed educative, ma anche attività ricreative e anche iniziative intergenerazionali di incontro tra giovani e anziani per il tessuto della comunità. E poi le mostre diffuse per i giovani, fatte dai giovani, in questo momento in città ce ne sono 3, e anche, se vogliamo completare il quadro, l'impegno forte per l'università che porteremo in centro al Bronx. Da settembre è operativo anche il servizio di educatori di strada, operatori che hanno l'obiettivo di intercettare e possibilmente prevenire il disagio dei più giovani. Marvin Dalmolin è referente dei servizi socioeducativi della Fondazione Opera Sacra Famiglia. L'equipe degli educatori di strada è formata da circa 6 educatori, operativi dal 1° di settembre. Andiamo in giro per le strade e cerchiamo di intercettare gruppi informali di ragazzi, preadolescenti ed adolescenti. Siamo ancora nella prima fase, che è quella della mappatura del territorio. Con alcuni gruppetti abbiamo già iniziato a fare delle intercettazioni, quindi abbiamo cominciato a presentarci non solo con i ragazzi ma anche con gli esercenti dei servizi commerciali, piuttosto che altre associazioni che operano comunque nel territorio, associazioni diverse anche da quelle prettamente educative, in maniera tale da fare il più rete possibile. E siamo allo sport calcio. Questa sera l'Udinese sarà impegnata in trasferta sul campo dell'Empoli alle 18.30 nel primo anticipo di Serie A, una partita chiave per trovare la prima vittoria in campionato e per il mister bianconero Sottile, ancora una volta sotto esame su una panchina che scotta. È ora di alzare il livello, mentre ritiene la sua posizione non in discussione. E a questo proposito ricordiamo che l'edizione del giornale radio di questa sera andrà in onda alle 18.05, proprio per dare spazio dalle 18.30 alla radiocronaca diretta della partita. Pallanuoto femminile. Nella prima partita della fase a gironi dell'Eurocup, oggi Trieste sarà impegnata a Budapest in Ungheria nella piscina del BVSC, con inizio alle 17. Le motivazioni sono alte, ha detto alla vigilia coach Paolo Zizza: ci teniamo a fare bella figura anche in campo europeo, sappiamo però che ci attende un avversario insidioso, con tante giovani di valore, capace di esaltarsi davanti al proprio pubblico. Missione internazionale a Singapore per il cluster Legno Arredo Friuli Venezia Giulia, che ha portato in Asia una delegazione europea sui materiali compositi e di riciclo provenienti dai settori arredamento, tessile e automotive. La delegazione aveva già fatto tappa nei mesi scorsi in Giappone e negli Stati Uniti. In occasione della Singapore Design Week, il cluster ha organizzato diverse attività, tra cui un incontro con Eurocham, la Camera di Commercio Europea, a Singapore. Le applicazioni straordinarie dell'intelligenza artificiale, che aprono nuovi orizzonti per il settore medico, sono stati alcuni dei temi trattati nel corso dello Young Investigation Meeting on Hepatology Gastroenterology, un seminario formativo di alto livello organizzato a Trieste con la partecipazione, fra gli altri, della professoressa Anna Rosa Floreani, un'autorità mondiale nelle colangiopatie autoimmuni. E in particolare è stato approfondito l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella diagnosi e nell'analisi dello status delle malattie epatiche, come riconoscimento automatico dei campioni istologici e introdotti ulteriori progressi nel campo dei large language models come ChatGPT e le loro applicazioni in medicina. Fra le importanti innovazioni presentate durante il congresso, anche l'utilizzo avanzato dell'elastografia epatica come metodologia non invasiva per monitorare la fibrosi nel controllo periodico dei pazienti. La rivista People and Nature ha recentemente pubblicato uno studio condotto grazie a una collaborazione tra l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, OGS, e l'Università degli Studi di Trieste, che ha confermato come soltanto un elevato livello di protezione dell'ambiente marino può minimizzare gli impatti delle attività dell'uomo. I ricercatori hanno prodotto 2 mappe di vulnerabilità. Le maggiori criticità a livello di fondale sono determinate ad esempio dallo sversamento di fanghi di dragaggio, dalla pesca di molluschi con draghe e turbosoffianti e dall'ancoraggio delle imbarcazioni. I risultati della ricerca hanno peraltro evidenziato l'effetto positivo dei livelli di protezione e di conservazione laddove sono stati istituiti nel preservare l'ambiente marino. La St. John's University di New York valorizzerà i 28 migliori studenti del corso di laurea in ingegneria gestionale dell'Università di Udine grazie a un progetto di alta formazione estivo ad hoc che prenderà avvio il prossimo anno. Il corso fornirà le conoscenze necessarie per gestire le operazioni commerciali globali in un contesto internazionale caratterizzato da una complessità crescente. La partecipazione sarà gratuita e gli studenti usufruiranno di una borsa di studio finanziata dai partners dell'iniziativa Fondazione Friuli, Danieli, ABS e ALIG. È la prima volta che l'Ateneo Friulano attiva un progetto con un'università di New York. A coordinarlo il delegato dell'Ateneo per il Job Placement e i rapporti con le imprese, Marco Sartor. Inizia questa sera la 42esima edizione delle giornate del cinema muto di Pordenone con il tradizionale evento di preapertura al Teatro Zancanaro di Sacile, dove sarà proiettato Poker Faces, La moglie di mio marito, un film del 1926 accompagnato dal vivo dalla Zero Orchestra. Nel servizio l'intervista al direttore del festival, lo statunitense Jay Weisenberg. Tornano le giornate del cinema muto al Teatro Giuseppe Verdi di Pordenone e al Cinema Zero fino a sabato prossimo 14 ottobre. Una non-stop dal mattino fino a tarda sera. È particolarmente forte questa 42esima edizione, perché? Perché ce ne sono una varia di titoli e abbiamo le capolavori, come sempre, tipo di Charlie Chaplin, Buster Keaton, Louis Foyard, Julien Duvivier, ma anche tanti film meno conosciuti, ma che sono le cose da scoprire. E questo per me è sempre un piacere, di trovare i film meno noti, ma che sono anche molto forti. Le serate di chiusura, per esempio, con Buster Keaton nei Sherlock Jr., è uno dei capolavori non solo nel cinema muto, ma nel cinema. Abbiamo combinare questo film con il film di Chaplin, The Pilgrim, di 1923. Quindi sono due eventi orchestrali. Per Chaplin c'è la partitura scritta da Chaplin e per Keaton abbiamo una nuova partitura scritta da un musicista olandese. Il movimento iconoclasta, la cancel culture, che cresce negli Stati Uniti d'America da ormai 3 anni, ha investito anche il cinema. Sono sempre problemi per le nuove generazioni quando loro vedono il cinema muto, perché ovviamente ce ne sono le cose sconfortevoli. Dobbiamo sempre trovare un modo di capire la nostra storia, non per difendere, ma per capire dove siamo ora. E rimanendo in tema di spettacoli, 8.000 spettatori ieri sera a Gorizia hanno accolto il concerto di Patti Smith, la sacerdotessa del rock, che nel finale ha proposto un duetto a sorpresa con la cantautrice monfalconese Elisa. We're so grateful to be with you all tonight, and this little song is called Grateful. Un'ora e mezza di concerto senza pause ieri sera per la celeberrima icona della musica rock a stelle strisce Patti Smith, che a Gorizia ha intrattenuto circa 8.000 spettatori accorsi anche da Slovenia, Croazia, Austria e Bielorussia per ascoltare brani amatissimi come Because the Night e Dancing Barefoot. Organizzato nel piazzale della Casa Rossa, nella cornice degli eventi preparatori che vedranno il capoluogo esontino a capitale europea della cultura con Nova Gorizia nel 2025, il concerto, gratuito e aperto a tutti, ha dato modo ai coetanei dell'artista, classe 1946, di riascoltare le canzoni della loro giovinezza e di proporre ai più giovani un intrattenimento basato solo sulla musica, senza ricorrere a maxi schermi, costumi di scena o coreografie, per privilegiare il contatto con il pubblico. So this is a song that's dedicated to all our indigenous people all over the world and all of the things that they are fighting for, nature. La preoccupazione per le tematiche ambientali, l'avversione alla guerra, il valore della libertà e l'importanza dell'amore, le tematiche care da sempre all'artista, che ieri le ha riproposte facendosi accompagnare alla chitarra dal figlio Jackson e da una band ridotta al minimo di 3 componenti. Partner d'eccezione la monfalconese Elisa, che è salita sul palco per partecipare all'esecuzione dell'ultima e più gloriosa canzone di Patti Smith, People Have the Power. Il Il programma dei colloqui dell'Abbazia, realizzati nell'ambito dell'attività culturale della Fondazione Abbazia di Rosazzo, ospita questa sera alle 18 Mario Calabresi, giornalista, ex direttore di Repubblica e fondatore di Cora Media, uno dei principali produttori di podcast di informazione in Italia. Calabresi presenterà i suoi ultimi libri, Una volta sola e Sarò la tua memoria, quest'ultimo dedicato a una storia che parte da Fiume e passa per Trieste. Lo abbiamo intervistato. Sarò in Friuli per parlare degli ultimi miei due libri. Uno si chiama Una volta sola e parla dell'importanza di avere il coraggio di scegliere. Sono storie di persone che, dove sembrava che non ci fosse la possibilità di fare più nulla, invece trovano una strada nuova e hanno il coraggio di percorrerla. L'altro, che è un libro pensato per i ragazzi, ma alla fine è un libro per tutti, si chiama Sarò la tua memoria, ed è la storia di una nonna e di un nipote. La nonna, che è Andra Bucci, fu deportata ad Auschwitz da Fiume e poi nella vita vivrà a Trieste. Sopravviverà ad Auschwitz, dove era entrata a soli 4 anni, e io ho voluto raccontare la storia del rapporto suo con suo nipote, che è cresciuto ascoltando le memorie della nonna e oggi le porta avanti e le porta in giro e le racconta. Tu per lungo tempo hai lavorato per la carta stampata, sei stato direttore anche di giornali importanti, oggi invece ti occupi di podcast, quindi di voce. Qual è il plus, la cosa in più che può dare il raccontare una storia a voce, come facciamo anche noi alla radio? Io trovo che la voce sia potentissima, perché crea intimità, perché è autentica. Se uno dice una bugia nella voce, senti subito che si incrina. E io credo davvero che la voce sia uno strumento di fiducia e un modo per costruire relazioni. I libri al Centro Civico di Dignano, in piazza Cimolino, sarà presentata la riedizione del volume dello studioso e storico Paolo Strazzolini, intitolato Guidalberto Pasolini Hermes, da Porzussa a Bosco Romagno, incentrato sulla tragica fine di Guidalberto Pasolini, fratello minore di Pierpaolo, avvenuta nel contesto dell'eccidio di Porzussa. Appuntamento alle 17.45. Questa edizione del giornale radio è andata in onda senza le firme per uno sciopero indetto dal sindacato Usigrai. Questa edizione del radiogiornale è andata in onda senza firme. Le giornaliste e i giornalisti della TGR contestano l'inopportunità di alcune recenti nomine decise dal direttore. In questi giorni è stato promosso caporedattore di una redazione regionale un giornalista che fino a poche settimane prima era capo ufficio stampa della giunta regionale, un fatto senza precedenti. Una scelta che mette a rischio credibilità, autorevolezza, autonomia e indipendenza dell'informazione della RAI dall'ingerenza della politica e dei partiti. Serve un netto cambio di comportamento da parte della direzione della TGR, che, lo ricordiamo, ha già ricevuto ben 2 volte il voto di sfiducia da parte delle redazioni regionali. La direzione di testata precisa che la nomina è stata effettuata sulla base di una procedura selettiva trasparente che risponde ai criteri e alle regole contrattuali, rispetto alla quale non è stato rilevato alcun profilo di incompatibilità o di conflitto di interessi. Come sempre, l'informazione regionale sarà improntata al massimo rispetto dei principi di autonomia, pluralità, imparzialità e autorevolezza che connotano il servizio pubblico radiotelevisivo. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio, che ha avuto la collaborazione tecnica di Carlo Morello e Federico Comar. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Prossimo appuntamento con il GR alle 15. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.